Sono in collegamento con Michele Lapini, fotoreporter. Benvenuto Michele ai microfoni di Radio Città Fujiko. Grazie mille. Siamo qui per parlare della serata che ci sarà al VAG per il Terra di Tutti Film Festival con la proiezione del documentario In Prima Linea di Matteo Balsamo e Francesco Del Grosso. Allora Michele, come avverrà questa serata al VAG? Cosa ci puoi raccontare? Sì, la serata VAG 61 che si trova nel rione Cirenaica inizierà alle 19.30 con una cena aperitivo e poi continuerà verso le 20.30 con incontro con Arianna Pagani, che è una videomaker per la sezione del making of e il cinema del futuro. Poi interverrò anche io presentando un po' il lavoro che è stato fatto insieme a WeWorld su Ventimiglia, sulla frontiera italo-francese e la situazione delle persone in transito quel confine all'interno appunto della sessione screening of la fotografia al Terra di Tutti Film Festival. Successivamente ci sarà la proiezione di In Prima Linea, appunto questo documentario di Matteo Balsamo e Francesco Del Grosso, che racconta un po' diciamo la vita e il lavoro di 13 fotoreporter. Non sarai all'interno del documentario, ma certamente anche tu ci puoi raccontare l'importanza della testimonianza fotografica all'interno del lavoro giornalistico. Sì, credo che il lavoro fotografico, la documentazione che in tanti facciamo sia in Italia che all'estero sia di fondamentale importanza per contribuire un po' all'informazione e quindi sviluppare consapevolezza e coscienza su quelle che sono le dinamiche globali ma anche locali. Tra l'altro all'interno del programma di quest'anno ci sarà anche un altro incontro molto molto bello il venerdì 8 al DAS in via del Porto, che è una collaborazione con Cortona on the Move, che è un festival molto molto importante che si tiene in estate, che tra l'altro è appena concluso, e ci saranno praticamente 5 talk che saranno introdotti da Veronica Nicolardi, che è la nuova direttrice del Cortona on the Move, e ci sarò io, ci sarà Luciano Nadalini, Giulia Picozzi, Alisa Martinova, Alfredo Bosco, Camilla Miliani con Manila Camarini e Rosalena Ramistella. Insomma, un programma per chi insomma ama o è interessato alla fotografia molto bello. Hai citato tu prima il tuo lavoro a Ventimiglia, ricordiamo che sei finito all'interno del corso della repressione dello Stato francese mentre seguivi i migranti che appunto cercavano di attraversare il confine. Perché credi che sia successo? Il tuo lavoro era così scomodo? Sì, quello che è successo a me a Valerio Mussel è un po' la cartina tornasole di quello che succede quotidianamente e che sta succedendo anche adesso probabilmente nelle frontiere che separano l'Italia e la Francia, soprattutto nella parte che riguarda la Val Susa tra Claviere e Montgenèvre, dove anche pochi giorni fa delle compagne e dei compagni hanno occupato un nuovo spazio cercando appunto di mettere un po' una toppa a un sistema che ovviamente non funziona e che non può funzionare, quello appunto di reprimere e fermare le migrazioni, soprattutto in una frontiera interna come quella italo-francese, dove ci troviamo già all'interno dell'Unione Europea e che c'è un brutto gioco strategico e politico sulla pelle delle persone in transito che sono costrette a rischiare sempre più la vita per poter raggiungere appunto le loro mete e continuare i loro viaggi. Quello che conviene, che è bello insomma che succeda, è che si tenga sempre alta l'attenzione su quelle frontiere che molto spesso sono dimenticate, Ventimiglia, Trieste, la Val Susa, le nostre frontiere insomma che sono un po' meno sulla lente di ingrandimento dell'informazione, dove però centinaia di persone ogni giorno cercano di attraversare le frontiere e molto spesso incontrano i respingimenti e le violenze delle polizie. Perfetto, io Michele ti ringrazio, insomma si parlerà di questo e di tanto altro alla serata al VAG di martedì 5 ottobre. Grazie ancora Michele. Grazie a voi.